Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Il governo ottiene la fiducia sul decreto salvacarceri, ma è ancora alta la tensione a Montecitorio. Durante le dichiarazioni di voto in aula, il deputato della Lega Gianluca Buonanno ha esibito un paio di manette, depositandole sul banco del governo davanti al ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, con i deputati del Carroccio che hanno esposto dei cartelli con la scritta no al salvamafiosi. Tensioni dunque che continuano con lo scontro politico che ha visto nelle ultime settimane il Movimento 5 Stelle in prima linea. La barbarie è che in questi anni non c'è stato alcun tipo di rispetto di questi documenti e l'operato della politica italiana è andato. Chi mi ascolta con assiduità sa quanto io sia poco propenso, abbia pochi strumenti professionali per gestire le mutazioni della politica che fanno in maniera sublime molti altri colleghi. Poi questa mattina, guardando come al solito le agenzie di stampa per decidere cosa fare a Melog, mi è saltata agli occhi questa notizia sulla fiducia che ha incassato comunque il governo alla Camera sul decreto svuota carceri. Però mi ha un po' colpito la difformità di opinioni e di posizione delle varie forze politiche, non che pretenda di stabilire dei principi di coerenza oggi dalle forze politiche, poi non è il mio mestiere. Però mi sembra strano che in questo momento su un problema come quello delle carceri ci siano posizioni in così netta antitesi, così differenti, in cui 5 Stelle si trova al fianco di Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, SEL, cioè sembra precisamente un grande putpourri in cui punti di vista antitetici si sono scannati, presi a schiaffi solo una settimana fa, si sono menati, hanno dato fuoco ai libri, hanno fatto di tutto, si sono insultati. Sul decreto svuota carceri si trovano in accordo. Io voglio capire cosa succede, perché questo tema, il tema delle carceri, divide in maniera così antitetica, almeno alle posizioni, diciamo, dell'ultima settimana. Non sto a parlare di pensieri che affondano in radici storiche che vanno oltre una settimana, perché so che le mutazioni sono notevoli. Diciamo che in questo momento, come diceva una volta fulminante Vittorio Sgarbi, sono gli amanti perfetti perché cambiano continuamente posizione. Ecco, questo sembra che in questo momento anche le antitesi politiche sono in realtà amanti perfetti, cambiano sempre posizione, quindi sono sempre nuove maniere per stabilire un connubio contrasto. Voi come la pensate nei confronti, adesso vi spiego esattamente cosa si tratta, di una legge che ci faccia ambire a una posizione più civile rispetto al resto d'Europa, rispetto al problema carcerario? Ne abbiamo parlato più volte, ne abbiamo parlato con persone molto competenti che questa mattina ho chiamato in fretta e furia perché spiegassero a me per primo e a chi mi ascolta cosa sta accadendo. Patrizio Gonnella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Patrizio Gonnella è presidente dell'associazione Antigone, da anni si occupa della realtà carceraria in Italia, ha scritto vari libri, tra cui Il carcere spiegato ai ragazzi, anche perché è una realtà che bisogna far capire, edizioni Manifesto Libri, un libro sul jazz e sugli esperimenti di attività creativa e di affrancamento anche della popolazione carceraria. Ma questa mattina mi spieghi esattamente cosa sta succedendo, perché ci troviamo di fronte all'imbarazzo di questa confusione? Com'è gente che si è presa ammazzata fino all'altro ieri si trova d'accordo nell'osteggiare il decreto salva carceri? Esattamente di cosa si tratta? Qual è l'oggetto del contendere? L'oggetto è un decreto obbligato, quindi il governo non è che aveva molte chance. Dobbiamo farlo per forza. Palle al muro. Dobbiamo farlo per forza perché a maggio 2014 l'Italia dovrà essere definitivamente giudicata dalla Corte Europea dei Diritti Umani, la quale ha dato un anno di tempo per ripristinare condizioni umane nelle nostre carceri. Quindi come se fossimo un paese di quelli in cui si dice un paese dittatoriale in cui ci sono delle condizioni disumane. Siamo equiparabili dal punto di vista del trattamento carcerario a questi paesi terrificanti? In questo momento siamo equiparati a paesi per esempio come la Russia per gli spazi del tutto insufficienti di vita interna, cioè meno di 3 metri quadri a persona, il che significa essere stipati senza vivendo nell'occhio forzato. Quindi è una forma di tortura. O esagerato. È una forma di tortura, sì, è per quello. L'articolo che la Corte ci contesta è l'articolo 3 della Convenzione. Quindi l'Europa europea dice: voi siete dei torturatori nei confronti della popolazione carceraria. Voi siete dei torturatori, quindi avete un anno di tempo per rimediare, e allora questo decreto è obbligato, cerca da e un se non lato. Rimediano, cosa succede? arriveranno centinaia, anzi di più di centinaia, sono già pendenti circa 2500 ricorsi che ci porteranno al 28 gennaio ad altrettante condanne per tortura a 3 giorni dall'avvio del semestre italiano di guida della UE. Non è ecco, bello. Ma come fa a essere 5 Stelle assieme a SEL e Fratelli d'Italia e Forza Italia, Lega Nord, sfavorevole a questa cosa qui, e si prende la responsabilità poi di questo onere che dovremmo poi pagare? Allora, diciamo, assolvo SEL, nel senso che non vota la fiducia perché per le dichiarazioni che ho letto dicono che è un decreto troppo blando, avrebbero voluto un decreto più coraggioso, soprattutto in materia di depenalizzazione di droghe, quindi è per motivi opposti che non ha votato la fiducia. Però il risultato è quello. Il risultato, diciamo, il punto è chi invece vede le elezioni dopodomani e quindi questo non lo fa per piacere mio, ma per dare un figlio a Dio, però il risultato è quello, non gliela danno. Siamo a pochi mesi dal voto, quello europeo, per cui si cerca di capitalizzare le paure. Quando il leghista Buonanno, se non erro, il deputato leghista, sì, fa vedere le manette e dice no ai mafiosi, ma questa norma, questo decreto con i mafiosi non c'entra nulla. Quindi non sono nemmeno informati, i nostri parlamentari. Ma nulla, è solo evocare le paure per poi sfruttarle. Allora, spiega esattamente cosa prevede, così capiamo. Hanno sventolato le manette di fronte al ministro Carcellieri dicendo i delinquenti devono stare in carcere. Cosa che non allora, ci piove. Faccio una sintesi, sì, sperando di non essere noioso. Sì, veloce. Allora, primo, per chi diciamo viene trovato con piccole quantità di droga, quindi lo Stefano Cucchi di turno, si abbassano le pene. Quindi diciamo per i fatti di lieve entità c'è una riduzione di pena. Stiamo parlando di droga. Poi c'è l'identificazione in carcere degli stranieri extracomunitari per evitare che una volta finita la pena poi vadano a finire nei CIE, mi sembra, per essere identificati, mi sembra un risparmio di spesa, diciamo, oltre che una norma ragionevole. Poi gli fanno il check direttamente in carcere, così si gli fanno il check direttamente in carcere. Poi c'è una estensione della liberazione, cioè uno sconto di pena per chi ha regolare condotta, ma sono esclusi i mafiosi, quindi può stare tranquillo il deputato leghista. Deve studiare sono, un po' più. Non sono previsti. Poi c'è la istituzione di un organismo di garanzia che le Nazioni Unite ci chiedono da decenni, cioè un'autority di controllo di tutti i luoghi di detenzione, non solo carceri, ma anche le caserme, i commissariati, i manicomi, gli ex manicomi criminali, i CIE e così via. E poi altre norme in materia di lavoro penitenziario. Stiamo parlando di questo, è un indulto mascherato? Ma no, ma che indulto mascherato? Sono piccoli segnali rivolti alla Corte Europea. Poi mi sembra aver capito che comunque nessuno escluso, le forze politiche stanno usando in maniera politica, quindi per manovrare sugli equilibri, sul dot des, sulle resistenze, qualcosa che in realtà è molto delicato, si gioca sulla pelle degli esseri umani, o dico qualcosa di estremamente ingenuo? No, è sacrosanto, ma anche sulla pelle degli operatori, dei lavoratori della sicurezza. Se oggi noi andassimo a chiedere alla maggior parte dei direttori di istituto penitenziario, tutti, al di là del colore politico che loro hanno, loro direbbero sono norme fin troppo timide, bisogna fare altro. Se le forze politiche, anche quelle che fanno il volto truce, ascoltassero i direttori, gli stessi poliziotti, gli assistenti sociali, i magistrati, io sono stato in un'audizione parlamentare in cui noi, che siamo un'associazione che si occupa di diritti umani, la magistratura, la polizia, dicevamo tutte le stesse cose, tutti. Questo è un segnale. Quindi una di quelle cose dove passare liscio, tranquillo, e passare a cose più importanti. Ma passare liscio deve essere, diciamo, non, invece questo tema diventa un tema per, diciamo, elettorale. Sì, addirittura ho visto sventolare il libro di Augias. Cosa c'entri il libro di Augias? Perché nulla, era stato bruciato in piazza perché Augias aveva fatto un attacco. Ormai siamo in una catena di pettegolezzaio. Tony, buongiorno. Tony è caduto? Niente, stavo parlando con l'ascoltatore Tony e è caduto in questo momento. Andiamo avanti nel capire. Dunque, facciamo un'ipotesi. Adesso cosa dovrebbe succedere? Qual è l'iter di questo decreto perché vada comunque in porto e qual è la tua previsione? Che oggi dovrebbe essere definitivamente votato alla Camera e poi passare in Senato, e ci sono 15 giorni di tempo perché sia convertito in legge, perché il 21 febbraio è la scadenza ultima. E questo, diciamo, vedremo, perché se il Senato lo approva così come è arrivato dalla Camera, ce la fanno, ma se il Senato invece lo approva con modifiche, e poi non c'è più il tempo di tornare alla Camera per la terza e quindi lettura. Dobbiamo pagare le multe. Fermo lì, Maurizio. Paghiamo le multe. Maurizio, sì. Buongiorno. Maurizio. Buongiorno, sempre. Io sono un ex detenuto, sono stato nel periodo anni 80, c'erano le rivolte. Io devo ringraziare una cosa, perché sono stato in galera perché rubavo perché non avevo voglia di lavorare. Ho lavorato in laboratori che mi ha permesso di imparare un lavoro. Io sono a posto. Io vi dico questo, la proposta che farei alla ministra Cancellieri. Nelle varie carceri, voi sapete, che ci sono vari laboratori tenuti da personale assunto lì per far fare lavoretti ai detenuti. Fuori ci sono tanti artigiani che sono falliti, stanno per fallire, chi fa i tappi di plaster, chi fa piccole e grandi cose. Metteteli dentro in questi laboratori, non gli fate pagare le tasse, al detenuto proponete, hai 4 anni da fare, 2 anni te le condono, ogni giorno di lavoro un giorno te lo condono, gli danno una paga minima, l'artigiano è salvo perché non paga tasse e continua il suo lavoro, si risolve il problema del condono e ci si guadagna sia l'istituto che il governo. Allora, sentiamo, fermo un attimo, Patrizio Connella, rispetto a questa proposta, una persona che il carcere l'ha conosciuto, è stato per lui, nella migliore delle ipotesi, come sempre dovrebbe essere, un momento di riflessione e di affrancamento da una condotta irregolare, fa una proposta. Esiste qualcosa di simile in questo decreto? No, in questo decreto c'è sì, diciamo, un maggiore sostegno alle occasioni di lavoro dentro, però è un decreto fatto a saldo zero, come si usa dire, cioè a zero lì, a zero euro, quindi non ci sono soldi. Solo per pararsi un po' il culo rispetto a quello che dicono l'Europa. Solo, diciamo, si interviene sulle norme, ma non si interviene sulle politiche. Per cambiare politiche, per fare quello che dice in modo sacrosanto, dice il radioascoltatore, ci vuole una regia e ci vogliono i soldi. E non è vero che i soldi non ci sono mai, perché i soldi ci sono, però il problema è utilizzarli bene. Sì, ci vorrebbe una stagione che qualcuno pensasse a bocce ferme, come se fosse uno delle parti di un programma politico, dice, beh, pensiamo anche alla situazione carceraria, pensiamo a delle migliorie, ma in realtà questa cosa viene fatta all'ultimo momento, in fretta e furia, per non pagare la multa, e diventa ancora una volta occasione di contrasto per ottenere, mantenere e creare, spingere e forzare. Melog, cronache meridiane. Questa mattina, in 20 minuti scarsi, cerchiamo di farvi capire di cosa si tratta, di cosa si parla. Quando sentite parlare di dibattito e contrasto e gazzara intorno al decreto svuota carceri, non è esattamente quello che pensate. Non entrate in una sorta di esca demagogica, nella vicinanza di possibili elezioni. Chiaro, c'è chi sventola le manette, chi dice fuori i mafiosi. Vi leggo qualche sms per farvi capire poi come passa l'informazione, come arriva alla base, alla pancia del paese. Civiltà è costruire carceri civili, liberare assassini, ladri e stupratori è inciviltà. Facciamo più carceri, più lavoro, meno delinquenti in giro. Ecco, non è esattamente questo il tema. Siamo tutti d'accordo che i delinquenti debbano scontare le loro pene, ci sia la certezza di pena, ma questa è un'altra cosa, è che l'Europa ci dice, voi Italia siete a un livello di paese incivile rispetto al trattamento della popolazione carceraria, li tenete in delle stie come oggi nemmeno più i polli in batteria possono stare, perché c'è gente che va lì e protesta. Ecco, gli esseri umani sono tenuti in condizioni assolutamente inumane, dovete provvedere. Di fronte alla necessità di provvedere in fretta e furia, senza una strategia, senza un piano politico, le forze politiche, come al solito, usano in maniera demagogica anche questo appuntamento. Sentiamo qualche ascoltatore e poi riprendiamo col nostro ospite. Francesco. Sì, buongiorno, grazie mille. Quello che io volevo dire era un po' legato a quello che ha appena detto, nel senso che, come al solito, l'Italia fa le cose raffazzonate di corsa perché l'Unione Europea ci mette al muro e ci dice così non potete lavorare. Mi è capitato spesso di intervenire nelle carceri, perché facendo il volontario per il 118 qualche volta mi è capitato di entrare, ed effettivamente la situazione è molto critica, si vede a occhio nudo anche da un inesperto come me. Però il discorso che io faccio è questo: è possibile che non si possa pensare a una soluzione strutturale del problema, cioè costruire delle strutture adatte a determinate situazioni sociali, quindi delle carceri, chiamiamolo carcere, chiamiamolo delle strutture di minima sicurezza in cui tenere determinate persone. Questa è una domanda logica e razionale, ma lei pensi che stiamo rischiando di pagare forse una cifra considerevole con la quale si dovrebbe fare degli interventi, se ci fosse pensato in tempo, in maniera saggia, poi perché il problema non è mai stato affrontato, ma è affrontato in maniera coerente. Giuseppe. Nicoletti, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo sapere solo, io sono un semplice cittadino, sul decreto svuota carcere. Uh-huh. Io ho sentito il primo intervento che lei ha fatto con uno scrittore, mi pare. Patrizio Gonnella, è uno che si occupa da anni, è un'associazione Antigone della realtà carceraria in Italia, ha scritto anche libri ma sul carcere, un esperto in carcere diciamo. Perfetto, sul decreto svuota carcere, io per lavoro vi seguo perlomeno 6 ore al giorno, io ho sentito questa mattina, proprio su Rai News 24, un alto magistrato che è impegnato alla lotta alla mafia, ha detto l'esatto contrario di quello che ha detto il suo ospite. Io vorrei sapere solamente chi c'ha ragione, dove sta la verità. Non so chi sia il magistrato, non so cosa abbia detto. Cioè, cosa ha detto? Che escono i mafiosi con questo decreto, escono i mafiosi dal carcere? Sì, sì. Si ricorda chi era l'avvocato? Chi era il magistrato? Guardi, io non lo so esattamente. No, era un altro magistrato. Sì, vabbè, uno può avere una sua opinione, non è detto che... Adesso sentiamo il nostro ospite comunque. Alessandro ha parlato? No, Alessandro. Sì, buongiorno. Sì. Alessandro, il suo punto di vista sul decreto svuota carcere? Il mio punto di vista è che dobbiamo distinguere il fatto di svuotare le carceri con il fatto di impedire a qualcuno di andarci. E questo è giusto. Sono due temi differenti che vengono però trattati all'interno dello stesso decreto. Ovvero, se da una parte è vero che ci sono delle condizioni per le quali occorre diminuire il numero di carcerati per dargli un minimo di decenza, appunto, al trattenimento, dall'altro c'è una norma che va a regolare, sì, depenalizza alcune attività considerate illecite per evitare che chiunque si faccia un paio di canne poi debba finire in galera. Questo mi sembra quello non mi preoccupa. Guardi, quello è l'ultimo problema. Il problema è che ci sono degli aspetti che evitano ad alcuni politici di andare in galera. Ah, ecco, ma lei conosce queste particolari, diciamo, sorprese dentro l'uovo di Pasqua che permetterebbero comunque di salvare capre e cavoli, quindi evitare persone che hanno carichi pendenti e stanno in politica e poi dover pagare? Le risulta ci sia l'evasione, l'evasione fiscale? Sentiamo il nostro ospite. Allora, Patrizio Gonnella, due ordini di domande. Vediamo se riesce a rispondere in 3 minuti e mezzo. Il primo dice, ho sentito un alto magistrato che dice che in realtà questo decreto dà via libera a alcuni mafiosi. L'altro ascoltatore dice, guarda, ci sono nascoste, delle chiavi nascoste subdole, come sempre accade, che poi sotto sotto salva, diciamo, le palle a molte persone che in realtà dovrebbero pagare per le loro responsabilità. C'è di vero qualcosa in questo? No, mi dispiace, non so chi sia l'altro magistrato, però diciamo ci sono solo due norme in materia di misure alternative all'interno di questo decreto. Una dice che si prevede la possibilità di avere l'affidamento in prova, che è una delle misure alternative presso i servizi sociali, se una persona ha un residuo pena inferiore ai 3 anni, non più ai 4. Però è una norma che già in passato, nella sua versione originaria, prevedeva l'esclusione per una serie di reati, fra cui i reati di mafia. E poi c'è una seconda norma. Però che non mi sembra che sia esattamente lasciare a piede libero un mafioso. Una persona che ha un residuo di pena invece che di 3 anni, 4 anni, può avere l'affidamento. Può avere, l'affidamento. Se si deciderà può che. Avere, ma poi deve avere un lavoro, non deve è obbligo, una famiglia. Sarà il magistrato poi a decidere se è giusto che lo abbia. Se ci sono le condizioni, sono è giusto che lo abbia. Pena. Gli sconti di pena, ma lì proprio c'è scritto ad esclusione dei reati di cui all'articolo 4 bis, quindi? Che sono quelli di mafia, principalmente, poi non solo mafia. Dopodiché c'è chi dice anche che non è giusto che diciamo ci siano trattamenti indifferenziati, ma io non pongo questo tema adesso, dico che stia tranquillo che non riguarda, diciamo, su diciamo la sorpresina nascosta, diciamo, dentro che in realtà salverebbe le situazioni di alcuni personaggi politici? Ah no, quella non la vedo, non lo so se l'ha vista, diciamo, ma io non ne ho la minima idea se ci sia una. No, non ci sono norme in materia di prescrizione, non ci sono norme in materia di processo. Lui diceva di evasione fiscale. ah, non c'è una norma in materia di evasione fiscale. Poi se ci sarà un evasore che ha meno di 3 anni di pena e che grazie a questa norma si prende l'affidamento, vabbè, ma insomma ogni norma deve essere necessariamente generale ed astratta, non è che può dire sì, l'affidamento a tutti tranne che agli evasori. Anche perché il principio fondamentale, uno in galera ci va perché in qualche maniera debba capire che ha sbagliato, non deve essere una sorta di tortura che dura. Se ci sono i segnali di ravvedimento, conviene rischiare che la persona faccia finta di ravvedersi piuttosto che tenere uno in galera che la veda come una cosa senza uscita. Loris. Sì, buonasera, sì. Buongiorno. Ma io ho sentito con grande interesse questo dibattito, mi pare di dover, vorrei aggiungere due cose. La prima è che comunque oggi intervenire sulle situazioni pregresse è anche necessario per sanare una grave inadeguatezza della magistratura in Italia. Generale questo decreto ci dovrebbe salvare da pesantissime sanzioni, questa è la fondamentale maniera. Certo, ma non viene detto, ma secondo me è importante perché oggi, grazie a una magistratura ideologicizzata in parte, ma soprattutto inefficiente, abbiamo tanti condannati ingiustamente, ma abbiamo anche tanti detenuti in attesa di giudizio che da innocenti si fanno, anche grazie a una normativa sulla custodia cautelare che non può andare avanti così, nel senso che ormai ai GIP è lasciata una discrezionalità così ampia per cui il pericolo di inquinamento delle prove. No, si è detto una cosa sacrosante, uno dei temi più dibattuti, ma è come una diga che ogni tanto si apre un buco e noi ci abbiamo 10 dita, quando abbiamo finito le dita non turiamo tutti i buchi. Ci sentiamo domani, grazie.